A bordo campo di Dario Ricci. Piemontese, classe 1943, ex portiere, oggi vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori e presidente del FIP Pro, che è il sindacato mondiale dei calciatori professionisti. Qui a bordo campo continuiamo a ragionare intorno a quello che è il presente e il futuro del calcio italiano e non solo. E allora, benvenuto al nostro ospite di oggi, l'avvocato Leonardo Grosso. Buongiorno a voi. Avvocato, allora, cursus honorum di tutto rispetto, ma l'impresa più recente è stata quella di evitare lo sciopero del calcio nostrano, no? Sciopero che si era un po' appalesato dopo le tensioni intorno al rinnovo dell'accordo tra Lega Calcio ed Asso Calciatori, appunto il contratto collettivo, direi ormai ipotesi remota. Come si è arrivata alla soluzione di questo rebus, avvocato? Noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilità, non abbiamo mai dato la disponibilità su alcune questioni che attenevano ai diritti fondamentali dei calciatori. Colgo l'occasione per rammentare per l'ennesima volta che né nella trattativa né nello stesso accordo collettivo dei calciatori non ci sono contenuti economici. Si tratta dei diritti fondamentali del calciatore che per svolgere un'attività assolutamente atipica, specifica, eccetera, sono diritti previsti sostanzialmente solo nell'accordo collettivo, perché le norme di legge, come dire, non sono sufficienti per la tipologia. Ecco, avvocato, accordo ormai riscritto dopo questo braccio di ferro, sciopero sfiorato, è stato stralciato un punto, quello che in modo semplicistico definiamo quello sui giocatori fuori rosa. In realtà tecnicamente si parla di quei giocatori e di quegli allenamenti diversificati, rose magari molto numerose, ma che preoccupano non poco l'Asso Calciatori, perché si sa, molto spesso alcuni giocatori riottosi ad accettare delle indicazioni anche contrattuali da parte del club di appartenenza vengono allontanati dagli allenamenti con la prima squadra, fatti allenare a parte, in una situazione in cui chiaramente la loro posizione contrattuale si indebolisce notevolmente. Il presidente della Lega Calcio di Serie A, Beretta, che è stato ospite di A Bordo Campo proprio pochi giorni fa, ha detto che su questo punto l'accordo è più vicino di quanto non sembri. Opinione da condividere dal vostro punto di vista? Ma vede, credo che lei intanto abbia descritto esattamente la situazione. La controprova di quello che poi è la vera motivazione di questa richiesta, che poi è la nostra paura per intenderci, è che tutte le società di Serie A hanno rose molto ampie, anche di 30-35 giocatori, e non hanno nessun problema ad allenarli tutti e 30, perché ormai l'allenamento moderno è fatto a gruppi, portieri da una parte, difensori dall'altra, chi fa la palestra, chi fa questo, chi fa quello. Quello che noi vogliamo assolutamente evitare è che si dica che è possibile allenarne 29 e non il trentesimo, perché il trentesimo non accetta un trasferimento. Quindi tanto chiarisco che la norma dice semplicemente che il calciatore ha diritto di allenarsi con la prima squadra, che è come dire che un giornalista ha diritto di entrare al giornale e mettersi a scrivere. Quindi niente di particolare, ma la cosa da evitare è proprio quella che ha detto lei, la discriminazione. Quindi l'intesa è che la norma sarà riscritta in questi termini esattamente, e poi se si potrà fare una sorta di interpretazione, saremo a disposizione. Però insomma, da quello che mi sembra di capire, accordo vicino, ma c'è ancora da discutere, insomma non è una cosa proprio che si scioglie in 5 minuti, visto che delle settimane scorse proprio questa diversità d'opinioni quasi portava allo sciopero. No, ma noi siamo anche disponibili a verificare un testo, per così dire, interpretativo, ferma la norma naturalmente. Deve essere chiaro che non deve essere un testo che consenta le discriminazioni che lei ha così bene descritto, perché poi questa è la realtà e questo è quello che i calciatori hanno ben chiaro di non volere, insomma. Ecco. Senta, io credo che dopo una lunga trattativa, dopo ore e ore condivise allo stesso tavolo con la controparte, si diventa anche in qualche modo amico. amici, no? Perché alla fine col presidente Beretta vi sarete incontrati decine e decine di volte in situazioni e momenti diversi. Beh, insomma, ci racconta qualche retroscena di questa trattativa, non so, un caffè che avete preso insieme, vi siete detti Leo, Maurizio, qua non ne usciamo, oppure dai che è quasi fatta, si crea questa solidarietà trasversale alla fine. Devo dire per la verità che sono state riunioni davvero molto, molto tumultuose, non è che ci siamo persi in molti caffè, nel senso che si cominciava la mattina, abbiamo fatto credo 10 riunioni di 6-7 ore ciascuno, io ho partecipato credo a parecchie trattative per gli accordi collettivi, questa è stata indubbiamente la più pesante. Insomma, poco spazio per i convenevoli. Senta, come conseguenza di questo braccio di ferro c'è stata anche la nascita di, adesso anzi mi aiuterà lei a capire meglio di cosa si tratta, se di un altro sindacato calciatori, visto che ha un'altra sigla, ANC, Associazione Nazionale Calciatori, oppure di quella che magari possiamo definire un'altra branca dell'asso calciatori. Fatto sta che da questo braccio di ferro appunto è nato in qualche modo un terzo soggetto, no? Che pure fa riferimento chiaramente all'area dei calciatori, ma che coinvolge in modo ancora tutto da definire calciatori come Buffon, come Doni. Ecco, è una scissione nell'asso calciatori, come l'avete valutata voi? Perché fino all'ultimo voi avete detto no, non c'è altro sindacato rispetto all'asso calciatori. Naturalmente c'è libertà di pensiero, libertà di associazione sindacale, per l'amor di Dio. Personalmente sono un po' stupito di questo, della nascita di questa associazione, perché penso che la dialettica all'interno di un sindacato sia opportuno farla, come si dice, dal di dentro, soprattutto se parliamo di Associazione Italiana Calciatori, che ha avuto una stella polare sempre in tutti i suoi 40 anni di vita, cioè, come si dice adesso, c'è un discorso da moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, cioè quelli più importanti che lavorano anche per i più deboli. Qui sento che questo sindacato dovrebbe essere un sindacato solo di Serie A. Francamente, se mi è consentito, nasce male perché si abbandonerebbe tutto il resto, a parte che mi risultano gli associati essere un numero ad oggi piuttosto limitato, ma si abbandonerebbero i più deboli, e i più deboli sarebbero già addirittura la Serie B, la prima e la seconda divisione, ma poi addirittura i dilettanti eccetera, che sono tutti associati, e verrebbe a mancare la grande forza dei numeri, perché oggi l'associazione calciatori, se non dico male, ha tra i 10 e 12 mila, 15 mila associati, e quindi la sua forza è che associa praticamente tutti i calciatori, e da sempre i grandi si sono battuti per i più deboli. Ecco, quello che magari la gente comune un po' non riesce a capire, magari in questo ci può aiutare Avvocato Grosso, il fatto che un campione come Totti, Del Piero, Buffon, eccetera, eccetera, possa essere rappresentato nello stesso calderone, nello stesso quadro normativo di giocatori di C1, C2, che pure fanno riferimento al calcio professionistico. Ecco, è ipotizzabile in futuro in qualche modo una contrattazione diversificata per categorie, perché è chiaro che i big hanno un peso, ma anche degli introiti, anche un appeal mediatico ben diverso da quelli che lei appunto ha definito come i più deboli della piramide calcistica italiana. Sì. Ma vede, in realtà già ci siamo a questa cosa, nel senso che dall'interno dell'associazione noi da tempo abbiamo organizzato e stiamo attuando un discorso, come dire, per fasce, perché è chiarissimo che i problemi dei calciatori di Serie A, che cominciano ad averne anche di molto pesanti tra l'altro, sono diversi addirittura da quelli della B, da quelli della Lega Pro, dai dilettanti, dal calcio 5, dal calcio femminile, sono tutti con noi associati. Quindi da un punto di vista di struttura interna noi ci stiamo adeguando ed organizzando, faremo sempre l'assemblea diciamo generale, perché è un obbligo statutario, ma stiamo organizzando gruppi di lavoro a tutti i livelli, perché veramente i problemi sono diventati specifici. Dal punto di vista contrattualistico, cui faceva accenno lei, questa è una realtà obbligata, cioè noi già oggi ci troviamo a trattare l'accordo collettivo della Serie A, tra poco l'accordo collettivo della Serie B, poi l'accordo collettivo della Lega Pro, se parliamo sempre di rimborsi spese, insomma comunque di denari, abbiamo trattato e trattiamo il cosiddetto accordo economico del campionato interregionale, dove ha messo un rimborso sia pure limitato, quindi questa è già una realtà. Ci sta dicendo che di fatto state organizzando strutture di lavoro ad hoc per le diverse categorie A, B, C, eccetera, eccetera. Ecco, certo, però sempre con una costante. Quando arriva la IC arrivano 10.000, 15.000 calciatori che in questo sono tutti uguali, tra virgolette, no? Cioè arriva la massa dei calciatori italiani che lottano, ripeto, sempre e solo per i diritti, perché in tutti gli accordi non ci sono contenuti economici, questi sono sempre lasciati alla contrattazione individuale. Un'ultima domanda prima di una breve pausa, poi riprendiamo a parlare perché i temi sono tanti e interessanti. Stiamo parlando di un quadro che è un po' figlio di quella che è ormai la famosissima sentenza Bosman, no? Per molti aspetti. Da molti anni si sta cercando anche in sede di Unione Europea di riconoscere una specificità dello sport, proprio perché molti sostengono che non si può equiparare un calciatore a un operaio seppur specializzato o a un idraulico, anche se tutti e tre lavorano nell'ambito dell'Unione Europea. Da questo punto di vista, crede possibile che si possa arrivare ad un riconoscimento di tale specificità, e l'Asso Calciatori che posizione ha in merito, o avrebbe, visto che il discorso è ancora ipotetico? Qui c'è un discorso di associazione calciatori, ma anche un discorso, lei lo accennava prima, di FIFPRO. Questo della specificità nello sport è un argomento di una delicatezza estrema, perché evidentemente al di là della battuta facile, il calciatore non è un idraulico, c'è il problema dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, in materia di diritti del lavoro, e quindi, ripeto, è una cosa estremamente delicata. Se la vediamo solo dal punto di vista diciamo così sindacale dei calciatori, lei tenga presente che in Europa, ma anche in tutto il mondo, pacificamente il calciatore è un lavoratore subordinato, e quindi diventa un po' difficile, come qualcuno vorrebbe, prendere la scorciatoia della specificità per togliergli alcuni diritti. Comunque è una materia in evoluzione dal Trattato di Lisbona, che è del novembre, praticamente a un anno, si sta lavorando all'interpretazione di questa norma. Quindi insomma c'è ancora da sfogliare pagine e pagine di codici. A bordo campo. Ancora insieme a bordo campo, ancora insieme con l'avvocato Leonardo Grosso, vicepresidente dell'Asso Calciatori e presidente del FIFPRO, che è il sindacato mondiale dei calciatori professionisti. Avvocato, stiamo parlando del presente e del futuro del calcio italiano e mondiale, parlavamo di quello che era stato lo sciopero che proprio in extremis è stato evitato. Beh, direi che però quello sciopero ha fatto, o quel tentativo di sciopero ha fatto parecchio arrabbiare il presidente del CONI Petrucci, no? Che da quel punto in poi l'ha messa giù dura, cercando anche di forzare un po' la mano della Federcalcio per ridefinire poteri e anche rappresentanza dell'Asso Calciatori nell'ambito del Consiglio federale. Crede che questa sia una frattura che possa andare a ricomporsi, e se sì, come? Beh, io intanto sono abbastanza stupito della presa di posizione del presidente Petrucci, che è sempre stato vicino tanto al calcio, ma anche, se mi è consentito, ai calciatori, riconoscendone, credo, l'importanza fondamentale nel quadro del calcio italiano, ma anche riconoscendo all'associazione calciatori una posizione ormai quarantennale di grande equilibrio. Non vorrei che il presidente Petrucci si fosse fatto, tra virgolette, spaventare, diciamo, dal rischio sciopero. Io capisco la comunicazione, l'immagine, eccetera, ma si è trattato di una normale trattativa sindacale nella quale si difendevano dei diritti fondamentali. Francamente non mi aspettavo questo tipo di intervento. Senta, tema invece quanto mai concreto è quello della riforma dei campionati. In Italia ci sono più di 120 squadre professionistiche, credo che siamo sulle 128? Sì. Esattamente, ecco, insomma, come vede anche il numero totale sfugge perché credo che sia record mondiale. Lì poi le dico qualcosa. Ecco, adesso me lo dice subito, anzi, c'è la commissione Macalli che sta lavorando in qualche modo a una riforma di questi campionati. All'orizzonte c'è il fatto che si sospendano quelli che sono stati finora i ripescaggi per arrivare a una diminuzione di questo numero di squadre professioniste. Situazione rispetto alla quale, se non sbaglio, l'Asso Calciatori è sempre stata contraria, no? Da un lato perché si tratta di posti di lavoro in meno, dall'altro qual è la soluzione alternativa, il piano B che avete in mente, Presidente Grosso? Intanto una piccola premessa, non la si può mettere francamente in termini di numeri, perché per intanto le faccio un esempio, non l'Inghilterra, la Gran Bretagna che ha sostanzialmente la stessa popolazione dell'Italia, un numero di squadre professionistiche simile al nostro, perché oltre all'Inghilterra c'è la Scozia, c'è l'Irlanda, così. Se andiamo su paesi più piccoli, insomma, dico l'Olanda, il Belgio, il rapporto tra la popolazione e le squadre di professionisti è ancora più alto che in Italia. Ci sono realtà anomale, in Spagna per esempio quella che era la nostra Serie C formalmente non è professionista, però hanno dei contratti di lavoro, hanno la pensione, hanno tutto, quindi cioè in realtà è un problema mal posto in termini di numeri. La verità vera è che le squadre di Lega Pro, e la verità perfino quelle di B, ma sono le squadre di Lega Pro, soffrono, hanno delle grandi difficoltà, però dovremmo andare a individuare le cause. Una piccola riflessione: il calcio di Serie A ha ormai intasato tutti gli spazi, ci sono partite tutti i giorni a tutte le ore, in particolare sono stati intasati gli spazi della domenica. Avete visto tutti che la Serie B è emigrata al sabato e già ha avuto i suoi problemi, perché in Italia la tradizione è che la partita è la domenica. In Serie C, diciamo in Serie C come si diceva una volta, diventa dura con il freddo alle 3 del pomeriggio andare a vedere, che ne so io, Lumezzane, Pergo Crema, che non so neanche se giochino tra di loro. E mentre si può vedere l'Inter, il Milan, la Juventus in televisione. Quindi in realtà quello che è successo è che per ottimizzare le entrate del calcio di vertice si sono sicuramente massacrate le entrate del calcio minore. Le dico un altro parametro di riferimento: il saldo di campagna trasferimenti a favore delle società di Lega Pro rispetto a Serie A e Serie B è crollato, perché oggi le società italiane vanno a pescare in Africa, in Sud America, eccetera, quindi stiamo finanziando i paesi extracomunitari. In realtà il problema andrebbe posto in un altro modo, cioè che cosa sarebbe opportuno fare, cosa sarebbe necessario fare per assicurare alle società di Lega Pro, quelle che rimangono, una situazione, diciamo, di decente equilibrio economico. Questo sarebbe il vero problema. Quindi mi sembra di capire che nel momento in cui la Commissione Macalli o chi per essa dovesse proporre un taglio del numero delle squadre professionistiche, l'Asso Calciatori scenderebbe in campo con un no deciso. No, in realtà no, la questione non si può porre in questi termini. Noi possiamo anche prendere, dimenticandoci dell'aspetto sindacale, che evidentemente per noi è prioritario, ma abbiamo imparato che francamente alle altre componenti non interessa molto. Ma mettendola proprio in termini di razionalità, bisognerebbe dire: eliminiamo un certo numero di squadre di Lega Pro, che poi andiamo a stabilire, a fronte di che cosa? Cioè, che cosa succede? Quelle che rimangono avranno una situazione economica, naturalmente nei loro limiti, accettabile? Avranno un equilibrio o semplicemente passeremo da 90 ipotetici rischi di problemi a 60, 70, 80 ipotetici rischi di problemi? Questa è la vera questione, e il grande rischio è che si proceda come già si fece una volta quando si eliminò uno degli allora 4 gironi di C2, si proceda al taglio di un certo numero di società senza assolutamente modificare tutto il resto, che vuole dire società strutturate, che vuole dire altre risorse economiche, che vuole dire cura dei settori giovanili, che vuole dire tante cose che però noi non vediamo progettate in questa fase. Eh sì, insomma, dinamica quanto mai complessa. Intanto però i vertici del movimento, la Serie A, l'eccellenza del movimento, pensa anche e sogna magari di trasformare il calcio che conta in una sorta di NBA pallonara, ce lo diceva il presidente della Lega Calcio di Serie A, Maurizio Beretta, proprio a bordo campo, che ipotizzava in un futuro che alcune partite del campionato italiano potessero essere giocate all'estero. E poi, insomma, quello che fa gola è l'idea di questo salary cap, no? Per tenere sotto controllo gli ingaggi dei calciatori. Da questo punto di vista, come Asso Calciatori e come FIF Pro, avvocato Grosso, ritiene possibile questo progetto? Beh, intanto io credo che bisogna sgombrare il campo dal mito dell'NBA, perché l'NBA ha un senso negli Stati Uniti. Stiamo parlando in realtà di un continente e non di un paese, stiamo parlando di realtà bloccate, tutte le società, non ci sono le promozioni, non ci sono le retrocessioni, c'è tutta una serie di regole che qua in Italia non abbiamo, e quindi quel modello paro paro non è trasportabile in Italia. Se vogliamo parlare di salary cap, a parte che anche nell'NBA non è che ci sia molto accordo su questo, abbiamo sbagliato obiettivo. Cioè, il vero obiettivo, a parer mio, delle società di Serie A dovrebbe essere assolutamente un altro. Basti riflettere alla struttura delle entrate della Serie A. Nei paesi calcisticamente evoluti, dico grosso modo, all'incirca, le entrate sono per un terzo da botteghino, per un terzo da televisione, per un terzo da sponsor, merchandising, eccetera. In Italia siamo sostanzialmente schiavi della televisione, nel senso che siamo riusciti a non far andare più la gente allo stadio, le entrate da botteghino sono modestissime, gli stessi sponsor, merchandising, non paragonabili, che so io, all'Inghilterra, eccetera, e quindi in altre direzioni, a parer mio, bisognerebbe lavorare. Andare alla partita dovrebbe essere una cosa piacevole. Io non sono molto d'accordo sul fenomeno, ma vedo famiglie che passano ore e ore e ore nel centro commerciale e spendono denari, e perché sono attratti da una serie di cose. Oggi andare alla partita è una scommessa, è un rischio, è una scomodità. Poi, se parliamo dei terreni di gioco, non finiamo più la trasmissione, ma parlando proprio di stadio, è veramente, gli stadi italiani sono veramente inospitali. Allora, proviamo a lavorare su queste cose, ma lavoriamoci seriamente. Lasciamo perdere i miti NBA, i salary cap, non c'entrano nulla con noi. Allora, accantonato il sogno americano, presidente, le rubo ancora un istante, perché ha pronunciato una parolina sicuramente importante e problematica, scommessa. Abbiamo visto il presidente dell'UEFA Michel Platini, lo stesso presidente della Federcalcio Abete, e addirittura e soprattutto il Comitato Olimpico Internazionale stanno sull'allerta, perché il fenomeno delle scommesse sta dilagando, con interessamente coinvolgimenti pericolosi anche per il calcio. Abbiamo visto molte squadre dell'est coinvolte nei primi turni delle coppe europee, e ai noi sappiamo quanto purtroppo il mondo del calcio italiano è stato permeabile in passato a questo fenomeno, seppur nei suoi aspetti più clandestini e sotterranei. Da questo punto di vista, l'Asso Calciatori quale proposte sta mettendo in campo, come state lavorando per recidere qualsiasi ipotesi di dubbio o di contaminazione tra i vostri assistiti e questa realtà? Beh, intanto vorrei confermare che l'allarme è veramente alto. Noi ne abbiamo discusso all'UEFA in sede di comitato strategico, dove ci sono state presentate le situazioni e l'opera di monitoraggio che fa l'UEFA. Fa molto, ma effettivamente il fenomeno è enorme. Un riflesso, se mi è consentito, ce l'abbiamo addirittura, ma qui parlo di società che gestiscono scommesse regolari, no? Per dare un'idea del giro d'affari che c'è, sono addirittura tra gli sponsor più importanti del calcio, e parlo, ripeto, di quelle che operano in piena legalità. Il fenomeno è diffuso in modo incredibile, nell'estremo oriente si gioca su qualunque partita di qualunque parte del mondo, per dire cosa ha provocato la globalizzazione. Quindi la cosa è estremamente preoccupante, e credo che gli interventi devono essere su vari livelli. Pacificamente c'è un intervento diciamo, di divieti che già ci sono, un intervento di cultura dei calciatori che sicuramente si sta facendo, ci deve essere un monitoraggio, e credo che già ci sia, ma è davvero difficile controllare tutto, sull'andamento delle scommesse. Credo che già adesso ci siano dei sistemi informatici per bloccare le scommesse quando succedono cose strane. Il grande rischio, visto dal nostro osservatorio, è che poi si vadano a coinvolgere i calciatori o il calciatore, e questo sarebbe veramente la fine di tutto, perché se poi il tifoso non ha più fiducia, allora è finito tutto, insomma diventerebbe come il wrestling o cose di questo genere. Ecco, però da questo punto di vista state ipotizzando dei passi concreti o dei progetti o degli interventi specifici, mirati? Ah, guardi, addirittura in sede UEFA si era ipotizzato una sorta di numero verde, perché poi c'è pure questo tipo di problema, no? Per chi fosse avvicinato da un numero verde, evidentemente anche riservato, per chi fosse avvicinato da qualcuno che volesse organizzare partite. È una cosa veramente, veramente seria, ecco. Allora, staremo a vedere. Intanto grazie a Leonardo Grosso per essere stato nostro ospite a Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Un saluto e un augurio di buone feste da Dario Ricci.